Capitolo 10. Il Pickwick Club e l'ufficio postale. Veniva innanzi la primavera e con essa divertimenti d'altro genere. Con le giornate più lunghe c'erano più ore, specie nel pomeriggio, sia per lavorare che per svagarsi. C'era da mettere in ordine il giardino e ciascuna delle quattro sorelle aveva un quarto della piccola area del quale faceva ciò che voleva. Anna diceva: «Ognuno di questi giardinetti saprei dire di chi è io, anche se lo trovassi in Cina». Ed era vero, perché i gusti delle quattro sorelle erano differenti come i loro caratteri. Meg, nel suo, coltivava le rose, gli eliotropi, i mirti e un piccolo arancio. Quello di Joe non era uguale 2 anni di seguito, perché Joe tentava sempre nuovi esperimenti. Un anno era il girasole, la bella pianta gloriosa ed ambiziosa che coi semi doveva nutrire l'orito e i puli della zia. Beth, nel suo appezzamento, aveva fiori senza pretese, all'antica, profumati e modesti. Il pisello odoroso, il piede all'allodola, il garofano semplice, quello doppio, la melissa e la viola del pensiero, il centocchio per le galline e l'erba dei gatti per i micetti. Amy, nel suo quarto, aveva formato una pergola piccola infestata dai bruchi, ma graziosa da vedere, di caprifogli, di convolvoli e campanule variopinte in penduli festoni. E poi grandigigli candidi, felci delicate e tutte le piante più appariscenti e pittoresche che riuscivano ad attecchirvi. Il giardino, le passeggiate, le barchette sul fiume, le spedizioni alla ricerca di fiori selvatici occupavano le giornate di sole. Quando pioveva, si ricorreva a qualche passatempo in casa, vecchio o nuovo e più o meno originale. Uno era il PC, ossia il Circolo Pickwick. A quei tempi era di moda giocare alle società segrete e siccome tutte e quattro le sorelle amavano Dickens, così fecero il Pickwick Club. Durava, con qualche interruzione, già da un anno. Le riunioni avevano luogo il sabato nell'ampia soffitta col cerimoniale descritto qui sotto. Si mettevano 3 seggiole in fila presso una tavola, sulla quale c'era una lampada e 4 bende di carta bianca, ciascuna con un grosso PC in un colore differente. C'era poi il foglio settimanale, l'albo Pickwick, al quale collaboravano tutte. Direttore era Joe, grande appassionata di carta penna e calamaio. Alle 7 i quattro membri salivano ai locali del circolo. Si cingevano il capo con la benda di carta e con grande solennità prendevano posto. Meg, la più grande, era Samuel Pickwick. Joe, la letterata, era Augusto Snodgrass. Beth, Rose e Pafutelle era Tracy Tupman. E Amy, che sempre voleva fare qualche cosa che non sapeva fare, era Nathaniel Winkle. Il presidente Pickwick leggeva il foglio, che era pieno di racconti originali, poesie, notizie locali, annunzi ed allusioni satiriche, coi quali le ragazze si rammentavano a vicenda i loro difetti e le loro manchevolezze. In una certa riunione, per esempio, il signor Pickwick, dopo aver messo un paio di occhiali senza lenti, battuto sulla tavola, schiaritasi la voce, fissato con uno sguardo severo il signor Snodgrass che sedeva nella seggiola all'indietro in equilibrio su 2 piedi soli, per richiamarlo ad una posizione più composta, procedette alla lettura. Il giornale cominciava col cantuccio della poesia, occupato da un'ode anniversaria di Snodgrass, che salutava uno ad uno i membri e si rallegrava di trovarli in buona salute. Pickwick con gli occhiali, Snodgrass con la grazia lieve di giovane elefante, una luce di poesia negli occhi, ambizioni smisurate nel cuore e una macchia d'inchiostro sul naso. Tupman, paffuto e roseo, che dal gran ridere cascava giù dalla seggiola, e Winkle, irreprensibile, tirato su 4 spillie, con la faccia poco lavata. Auguri di gloria letteraria e di felicità a tutti. L'ode, firmata, era naturalmente di Snodgrass, il poeta. Seguiva un drammatico racconto di Samuel Pickwick, nel quale c'era una festa in maschera e un nobile veneziano deciso a dare in sposa la figlia al conte Antonio, mentre lei amava un giovane artista. Sul più bello della festa compare un sacerdote per celebrare il matrimonio della figlia col fidanzato impostole dal padre, tiranno, e controvata ingegnosa, ma con evidente disprezzo delle regole canoniche, gli sposi si presentano anch'essi in maschera e in maschera vengono uniti col vincolo sacro del matrimonio. Dopodiché si scoprono. E chi è lo sposo? È l'artista spiantato, che poi invece è un nobile e ricco signore, il conte di Devereux e Devers. Il padre tiranno cede e benedice la coppia infelice. Seguiva poi la storia di una zucchina nata e maturata in un orto, portata al mercato e comprata da una ragazza, vestita così e così, con la faccia tonda e il nasetto a pallottola. Tagliata la zucchina a metà, bollita e passata all'ostaccio detta metà, aggiunto le sale e burro, era conservata per pranzo. L'altra metà, con mezzo litro abbondante di latte, due uova, qualche cucchiaiata di zucchero e un po' di noce moscata, era servita in tavola. L'interessante storia portava la firma di Tupman. In una lettera al direttore un po' sgrammaticata e senza punti né virgole, ma in compenso con qualche parola francese spropositata, l'autore, Winkle, si scusava della sua poca attività di collaboratore, promettendo, in mancanza di scritti originali, una favoletta in francese per il prossimo numero. In una nota, il direttore ringraziava e coglieva l'occasione per raccomandargli lo studio dell'interpunzione. Era quindi narrato un incidente accaduto al bene amato presidente Pickwick, una caduta in cantina a capofitto dentro una tinozza d'acqua, tirandosi addosso anche un secchio di saponata densa, il tutto senza altro danno che qualche ammaccatura e qualche strappo. In un trafiletto, segnato a lutto, si comunicava, attribuendola a ignoti malfattori, la misteriosa scomparsa di Palla di Neve, detta altresì Zampa di Velluto. Trascorso il termine di tempo senza altre notizie della scomparsa, essa veniva considerata, a termini di legge, deceduta e con parole di vivo rimpianto se ne ricordavano le grazie impareggiabili e le doti preclare e se ne conservava la memoria imperitura e insieme a questa il piatto nel quale usava prendere i pasti. Un nastro nero decorava l'orbato cestino. Si pubblicava quindi un lamento in versi in cui il poeta deplorava che mentre era concesso agli amici e ammiratori di deporre ghirlande e versare lacrime sulla tomba di una figlia di Palla di Neve, premorta alle intenere età altrettanto, non era possibile fare per lei. Eppure, rendendo giustizia al suo successore, era giocoforza riconoscere che l'indimenticabile scomparsa lo superava di 1.000 cubiti per l'agile grazia e per il coraggio eroico nelle pugne contro i cani millenari nemici. Negli echi di cronaca si annunziavano una conferenza di Snodgrass, sotto altro pseudonimo, sulla condizione sociale della donna, un corso di culinaria, docente Anna Brown, una parata di spazzini in uniforme, scopa in spalla, una mostra di biancheria per bambola, ultimi modelli di Parigi, la rappresentazione, fra poche settimane, dello spettacoloso dramma La schiava greca, ovvero sia Costantino il Vendicatore. In un breve trafiletto si invitava Samuel Pickwick a venire con meno ritardo a colazione. Snodgrass a non zufolare per la strada, Tupman a non dimenticarsi un certo fazzoletto di Amy e Winkle a non disperarsi perché il suo vestito aveva solo 8 balze e non 9. Chiudeva un rapporto settimanale redatto nei termini seguenti: Meg, bene, Joe, male, Beth, benissimo, Amy, così così. Dopo che il presidente ebbe finita la lettura del giornaletto, il cui originale posso assicurare le lettrici, è qui sotto i miei occhi mentre scrivo, scoppiò un applauso. Quindi si alzò in piedi il signor Snodgrass per fare una proposta. Signor Presidente e signori, incominciò in tono e posa parlamentari, ho il pregio di proporre l'ammissione di un membro nuovo, una persona che merita altamente quest'onore e che ne sarebbe profondamente riconoscente e della cui presenza fra noi grandemente si avvantaggerebbe lo spirito del sodalizio, il valore letterario del suo organo e che è per giunta una persona gaia e cortese. Propongo che sia accolto come membro onorario del circolo Pickwick il signor Teodoro Lawrence. Accettatolo senza tante storie. Il mutamento di stile nella chiusa del discorso destò l'ilarità generale, ma tutti erano un po' in dubbio e quando Snodgrass tornò a sedersi ci fu un silenzio di qualche secondo. Mettiamo la cosa ai voti, disse il presidente. Chi vota in favore, dica sì. Ma con sorpresa di tutti, al sì immediato e forte di Snodgrass, seguì una timida osservazione di Tupman, ossia di Beth. Chi è di parere contrario dica no. Meg e Amy furono di parere contrario e il signor Winkle si alzò per dire con forbita parola: Non vogliamo uomini, sono buoni solo a scherzare e a fare disordine. Il nostro è un circolo femminile e vogliamo che si mantenga riservato e corretto. Temo che riderebbe del nostro giornale e dopo ci prenderebbe in giro, osservò Pickwick Meg, tirandosi il riccio che aveva sulla fronte come faceva sempre quando era perplessa. Allora saltò su Snodgrass e parlò molto seriamente. Signore, vi do la mia parola di gentiluomo che Lori non lo farà. Gli piace scrivere, a lui, e il tono del giornale guadagnerebbe in elevatezza, impedendo che anche noi, quando scriviamo, si cada nel sentimentale, non vi pare? Noi per lui possiamo fare ben poco. Lui, invece, per noi fa tanto. Credo che il meno che possiamo fare è di offrirgli un posto fra noi, accogliendolo come il benvenuto, se ci viene. A questa abile allusione ai benefici di Lori, Tupman balzò in piedi e parlò come uno che ha deciso. Sicuro, lo dovremo accettare, anche se ci fa paura. Per me venga pure, e anche suo nonno, se ci tiene. L'inusitata energia con cui parlò Beth ebbe l'effetto di una scossa elettrica. Joe si alzò dal suo seggio e andò a stringere la mano all'oratore. Allora si rifà la votazione. Ricordiamoci tutti che si tratta del nostro Lori e votiamo per il sì. E il signor Snodgrass parlava molto animatamente. Sì, dissero in coro tre voci. Benissimo, e grazie. E adesso, siccome non c'è niente di meglio che afferrare l'attimo fuggente per la criniera, come dice con tanta eleganza il signor Winkle, permettetemi che presenti il neo-pickwickiano. E con viva sorpresa di tutti, che si tradusse in energiche proteste, Joe spalancò la porta di uno sgabuzzino e rivelò alla loro vista Lori, che seduto sopra un sacco di cenci e rosso in volto, tratteneva a stento la voglia di ridere. Canaglia, traditrice! Esclamarono le tre ragazze, mentre Snodgrass, tratto innanzi trionfalmente il suo amico, gli poneva sul capo le insegne cartacee del circolo e in un batter d'occhio lo insediava. Briganti, facce toste! Cominciò il signor Pickwick, che cercava di fare il volto accigliato e invece non riusciva che a sorridere. Ma il nuovo membro fu all'altezza della situazione. Si levò, salutò con molto garbo la presidenza e in tono di gran cortesia disse: Signor presidente, signorine, pardon, signori, permettetemi che mi presenti Sam Weller, l'umile servitore di questo illustre consesso. Bene, bene, gridò Joe battendo sul tavolo col manico di uno scaldaletto. Lori fece segno con la mano che aveva ancora da dire qualche cosa. Il mio egregio amico e nobile padrino, riprese, non ha nessuna colpa del basso stratagemma di questa sera. Sono stato io a escogitarlo e lui ha acconsentito dopo molte insistenze da parte mia. Andiamo, non ti prendere tutta la colpa tua adesso, lo interruppe Snodgrass, godendosela a mondo. Lo sai bene che io ti volevo nascondere nella credenza. Non date ascolto a ciò che dice, disse il neoeletto, ammiccando al signor Pickwick come avrebbe fatto Sam Weller realmente, con l'accento cockney, ossia londinese, di quell'immortale personaggio. Ma vi prometto che non lo farò più e che voglio dedicarmi d'ora innanzi al benessere e alle glorie del circolo Pickwick. Udite, udite, gridava Joe, sbattendo nuovamente il coperchio dello strumento summenzionato. Continuate, aggiunsero Winkle e Tupman. Il presidente, sorridendo, fece un inchino. Ovvero sia, proseguì Lori, come pegno modesto della mia riconoscenza per il grande onore che mi viene conferito e allo scopo di promuovere la massima cordialità di rapporti fra le nazioni confinanti, ho istituito un ufficio postale nella siepe, nell'angolo più basso del giardino, un bel edificio spazioso col chiavistello a tutte le aperture e ogni comodità possibile e immaginabile per la corrispondenza dei membri e delle membre, se lecito la parola, in questo consesso. È la capanna vecchia degli attrezzi del giardiniere, ma ci ho fatto mettere la porta e aprire un abbaino nel tetto. Ci si può mettere ogni sorta di cose e si risparmia tempo prezioso. Lettere, manoscritti, libri, involti si depositano là dentro. Ciascuna delle nazioni confinanti avrà la propria chiave e credo così che tutto procederà a meraviglia. Permettetemi di consegnare la chiave destinata a voi. E rinnovandovi i miei ringraziamenti per l'accoglienza, torno al mio seggio. Weller, fra grande clamore d'applausi, depose sul tavolo una piccola chiave e tornò a sedersi. Il coperchio dello scaldaletto sbatté ancora vigorosamente e ci volle un po' di tempo perché tornasse l'ordine. Seguì una lunga discussione in cui tutti rivelarono un'eloquenza sorprendente. Quella riunione riuscì in complesso animatissima e si sciolse ad ora tarda con tre urrà strillati a gran voce per il nuovo socio. Non ebbero mai a pentirsi di averlo accolto. Un membro più devoto, più corretto e più gioviale di Sam Weller sarebbe stato impossibile trovarlo. La sua collaborazione al giornale ne sollevò davvero lo spirito e il tono. I suoi discorsi facevano scoppiare dal ridere l'uditorio. I suoi scritti erano bellissimi per patriottismo, comicità e drammaticità. Tutto ciò senza mai cadere nel sentimentale. A Joe parevano degni di Bacone, di Milton o di Shakespeare. Su di essi ella modellava i propri, con effetto che le pareva ottimo. L'ufficio postale riuscì una piccola istituzione ottima e fiorentissima perché ci passavano dentro cose molteplici, svariate, impreviste e buffe, come alla posta vera. Tragedie e cravatte, poesie e roba in salamoia, sementi di fiori e lettere voluminose, musiche e biscotti, soprascarpe di gomma, inviti, lavate di testa e cuccioli di cani. Anche al vecchio signore il gioco piacque e si divertì lui pure a mandare in volti vari messaggi misteriosi e telegrammi da ridere. Persino il giardiniere, innamorato delle bellezze di Anna, se ne servì per mandarle una dichiarazione d'amore a cura di Joe. Come risero tutti quando il segreto si riseppe, non immaginandosi nemmeno quante altre lettere d'amore ci dovevano passare, col tempo, nel piccolo ufficio postale istituito per gioco.